Con Fabio Venditti per parlare della nascita di una nuova testata presentata alla Federazione Nazionale Stampa Italiana, beccati a scrivere. Fabio, ben trovato. Ciao, buongiorno. Ci racconti? È un lavoro che facciamo in carcere, terza casa di Rebibbia a Roma. La terza casa è quella, è l'istituto cosiddetto a custodia attenuata, quindi diciamo hanno maggiori margini di movimento all'interno del carcere. E quindi è una redazione di detenuti, detenuti e due volontarie. Un'esperienza spettacolare perché la cosa che dà emozione quando si lavora con i detenuti è che tu riesci a stimolare in loro delle capacità che non pensavano proprio di avere. Cioè, quando noi ci vediamo 2 volte a settimana per scrivere questo mensile, arrivano magari con l'ultimo pensiero che gli è venuto la notte prima, o con una poesia, con un racconto di vita e leggi delle cose meravigliose, bellissime, e loro stessi si stupiscono di essere stati capaci di farlo. E questa è la cosa fondamentale del lavoro con chi sta in carcere: stimolare queste capacità, fargli capire che esiste molto altro nella vita, di molto più bello, piuttosto che fare i reati. E questo aiuta tutti, aiuta la società, perché abbatte la recidiva, il lavoro fatto così. Quindi nel complesso quante persone impegnate e quante pagine il mensile? Mensile di 32 pagine, ci sono una dozzina di detenuti che ci lavorano. Com'è partita l'idea di tutto? Ma in realtà questa testata esisteva già alcuni anni fa. Ok. Poi la direzione del carcere mi ha chiesto di farla rivivere e io l'ho fatto con assoluto entusiasmo, anche perché insomma non è il primo lavoro che faccio con i detenuti, infatti, ne ho fatti svariati altri. Ed è secondo me un impegno fondamentale in una fase assolutamente forcaiola, cioè in una fase in cui fare i duri, i cattivi, gli sceriffi porta voti. Questa è una politica, un atteggiamento assolutamente imbroglione, perché è vero l'esatto contrario, lo dimostra la storia, lo dimostrano le statistiche, lo dimostrano gli studi, lo dimostrano le esperienze. Più la pena è afflittiva e più la recidiva sale. Cioè, non è questo che crea sicurezza. Fare i forcaioli, fare quelli che hanno le chiavi grosse in mano, in realtà crea assolutamente insicurezza, non sicurezza, perché il detenuto si incattivisce e quando esce torna a delinquere, mentre invece dare fiducia, fare un giornale, per dire adesso la mia piccola esperienza, dare la possibilità di scontare la pena in forme alternative, dare i benefici, abbatte la recidiva, cioè fa cambiare le persone. Una persona che sta in carcere, una persona che deve cambiare, che deve fare un percorso formativo. Allora, ci sono tante attività che questa cosa la consentono. Le pene alternative, questa cosa la consentono. L'affidamento al lavoro, questa cosa la consente. Quindi, questa cosa, io quando sento parlare di certezza della pena, cioè brividi, mi viene mal di stomaco, c'è già la certezza della pena. Il problema vero è che la certezza della sicurezza viene data se il trattamento in carcere è umano, se è formativo, se cambia le persone. Sì. Senti Fabio, come sono strutturate queste 32 pagine? C'è la parte seria e c'è la parte divertente. Beh, intanto la cosa più importante che c'è in questo primo numero è un'intervista collettiva a Gherardo Colombo, magistrato del pool di Mani Pulite del 92, pool di D'Ambrosio, di Pietro, Sì. Davigo. Un'intervista bellissima, un'intervista collettiva perché io ho raccolto le domande che volevano fare i detenuti e poi le ho rivolte a Gherardo Colombo e abbiamo scritto il testo. Intervista bellissima perché Gherardo Colombo, appunto, che è conosciuto come un magistrato duro, no, uno appunto di questi che hanno smontato la Prima Repubblica, in questa intervista racconta come invece il carcere sia una fabbrica di criminali. Cioè, non al supermercato, diciamo, per le persone libere. Cioè, per dire, raccontiamo cose che non si sa, che non si sanno, e poi ci sono le pagine delle poesie, ci sono anche i giochi, cioè le cose che tu metti in un periodico. Dove sarà reperibile la testata? Ecco, questa è una bella domanda, perché essendo male, poverissimo, completamente autoprodotto, non ha una vera e propria distribuzione. Noi adesso lo porteremo in alcune librerie, cercheremo di portarlo nelle scuole, cercheremo di organizzare altri eventi e poi, se riusciremo a trovare sostegno, se riusciremo a trovare aiuto, vedremo di organizzarlo come sia vero e proprio, che si può permettere una sua distribuzione, che può arrivare nelle edicole. Ieri, per esempio, Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione della Stampa, ha detto che sicuramente l'Ordine dei Giornalisti, lo stesso sindacato dei giornalisti, devono trovare le forme per darci una mano per far vivere questa esperienza. E allora, in chiusura, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più? Allora, intanto c'è una mail per chi vuole interagire con noi, che è Beccati a scrivere @gmail.com. Un sito internet non c'è, c'è la pagina Facebook del carcere, Rebibbia Terza Casa. E allora ricordiamo la rinascita di questa testata Beccati a scrivere, Pensieri fuori dalle sbarre, presentato alla Federazione Nazionale Stampa Italiana, un giornale scritto in collaborazione con i detenuti della casa circondariale di Rebibbia. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Venditti. Fabio, ci sentiamo allora per le prossime novità. Assolutamente, certo. Grazie tante. Un abbraccio e in bocca al lupo. Crepi, ciao. Ciao.